si sposa e chi si sposta da una parte all'altra. Io vado in giro e giro a vuoto, sono la chiave giusta nella toppa sbagliata. Ho una toppa strappata sulla bocca, una lingua che taglia una taglia sul cuore e tanta lacca. Tra i capelli arruffati per tenerci attaccati, i pensieri che penso e che non posso dire no. Quelle come me parlano da sole, prendono un caffè più o meno ogni due ore, hanno i tacchi alti per toccare il cielo e due ali forti per scappare al volo da quelli come te, da quelli come te, da quelli come te, da quelli come te. Tu che sei bello al punto giusto, sembri uno a posto. Io che sto nel posto giusto, solo se sto fuori posto. E mi perdo per strada, ho la faccia arrossata per il sole. Non trattarmi come se io avessi 10 anni, ne ho solo 9. Sono la principessa di un castello di sabbia, e se il mare s'arrabbia anche un castello in aria. Quelle come me ballano da sole, vanno in giro senza ombrello quando piove, hanno sempre qualche cosa da scordare, illusioni e vecchi film per non dormire, per non morire. Dammi qualcosa in cui credere, che non ho amore da perdere. Dammi qualcosa da perdere, che non ho amore in cui credere. Quelle come me parlano da sole, prendono un caffè più o meno ogni due ore, hanno i tacchi alti per toccare il cielo e due ali forti per scappare al volo. Quelle come me quando piove, hanno sempre qualche cosa da scordare, illusioni e vecchi film per non dormire, per non morire. Dammi qualcosa in cui credere, che non ho amore da perdere.